Lunedì 28 ottobre e come tutti i lunedì intorno alle 4 e mezza arriva il consueto appuntamento con il disco della settimana. Ma a cosa serve il disco della settimana? A lenire l'inizio della settimana, no? Quando uno è un pochino giù perché dice lunedì, ho tutta una settimana davanti, che due scatole, no. Noi arriviamo, abbiamo scelto un album per voi che vi accompagnerà dal lunedì a tutta la settimana, quando volete ascoltarlo voi, con l'estrazione di alcuni pezzi da un album che scegliamo tra le nuove uscite, solitamente. Ecco, nel nostro weekend musicale abbiamo scovato quest'album uscito venerdì scorso, cioè il 25 ottobre, di una abbastanza vecchia conoscenza, anche nostra, anche della radio, ma è comunque un disco d'esordio. È strana questa cosa, eh? Coincidenze? Io non credo. In realtà questo artista, appunto, adesso vi racconteremo chi è uscito con il suo progetto solista il 25 ottobre, raccontando tra l'altro che era da tantissimo tempo che aveva voglia di fare un progetto da solo, dopo avere sostanzialmente suonato dalla metà degli anni 2000 in diversi progetti che poi vi racconteremo. A questo punto possiamo dirvi di chi si tratta. Stiamo parlando di Ettore Giuradei. Magari questo nome ad alcuni suona un po' nuovo, ma poi più tardi vi racconteremo chi è e perché secondo noi dovreste già averne sentito parlare o anche visto dal vivo. Esatto, quindi Ettore Giuradei è uscito con il suo nuovo album venerdì scorso. Questo album si chiama Lucertola. Lucertola è un album molto particolare e a noi ha colpito sia per le sonorità, perché comunque Giuradei ci piace, diciamo, per come suona e come compone, ma anche per come è stato creato. Infatti è un album che ha una particolarità che anche in questo caso vi raccontiamo dopo. Direi che a questo punto possiamo intanto ascoltare un primo pezzo estratto da quest'album Lucertola. E perché non iniziare col pezzo che dà il titolo all'album? Esatto, iniziamo direttamente dalla traccia numero 5, che si chiama appunto Lucertola. Mi piace questa casa senza specchi, mi piace non vedermi. Penso a quando mi toccherò la pelle della faccia, a quando sentirò l'odore della pioggia. La forma ideale, l'immagine che conta, cambia ma rimane sempre uguale, cambia ma rimane sempre uguale, lucertola. Adesso, alla ricerca di me stesso, cresco ma ci penso. Con in testa l'universo, ma dal cesso non ci passo, cresco ma ci penso. Mi piace questa casa senza specchi, mi piace non vedermi. We'll be right back. parlare di Lucertola, che è quello che stiamo facendo oggi sostanzialmente, io farei un passo indietro, Mauro, ovvero parlerei un attimo di chi è Ettore Giuladei, perché la sua biografia musicale è abbastanza ricca e soprattutto va un pochino indietro nel tempo. Infatti Ettore è un po' grande, insomma, no? È un po' più grande di noi, è anno 1981, quindi comunque a livello musicale ha avuto tempo per fare diverse esperienze, e a metà degli anni 2000 appunto ha esordito sul panorama musicale con un progetto creato col fratello minore Marco, che ha la nostra età tra l'altro, e hanno creato questo duo, diciamo, con un nome proprio impensabile, direi. Sì, dal 2005 i Giuladei iniziano la loro carriera musicale come progetto. Nel 2006 pubblicano l'album d'esordio Pancia Storie, che si aggiudica anche il premio Nuova Canzone d'Autore al MEI, al Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza, di cui abbiamo parlato anche poco tempo fa, tra l'altro. Esatto, e arriva in finale al premio Fuori dal Mucchio e al premio De André, sempre nel 2006. Nel 2008 pubblicano il secondo album, chiamato Era che così. Chissà cosa vuol dire, sarà un modo di dire della zona, tu che sei della zona? Non proprio. Non è un modo di forse dire. Forse quelli che sono stati alle loro 170 date di presentazione di quest'album possono dirci qualcosa. Ma nel 2010 continuano e pubblicano un altro album, quindi ogni due anni per il momento ne hanno uno, che si chiama La Repubblica del Sole. Tra l'altro in questo terzo album c'è una particolarità, cioè aprono, diciamo, il duo, si aprono alla collaborazione con nuovi musicisti che entrano all'interno del gruppo. In questo disco, che appunto esce nel 2010, c'è un altro lungo tour di promozione, insomma sostanzialmente loro si divertono facendo concerti all over the world, o in esatto. Italia, insomma. Finché nel 2013 pubblicano da Picicca Dischi il quarto album, e per il momento l'ultimo, col nome Giuradei, e si chiama Giuradei. Diciamo che c'è un attimino una ristrettezza semantica, non lo so. A questo punto, diciamo, dal 2013 non sentiamo parlare di Ettore Giuladei per quanto riguarda nuove uscite per qualche anno. Poi, come vi dicevamo prima, perché lo dovreste conoscere o perché potreste avere sentito parlare di lui? Perché l'anno scorso, nel 2018, anche noi ve ne abbiamo parlato all'interno di Radio Città Fujiko, è stato citato più volte. È anche intervistato e anche presentato come disco della settimana, quindi andate a cercare gli archivi. Perché? Perché ha iniziato un progetto parallelo. Un progetto che vedeva, oltre ai due fratelli Giuradei, Ettore e Marco, la presenza di niente e po' di meno che Luca Ferrari dei Verdena, Carmelo Pipitone dei Marta sui Tubi, Mica Cacchi, come sei Mica delicato, Cacchi. Visto che la settimana scorsa abbiamo fatto un disco della settimana ripieno di parolacce, fiori oggi di merda, questa volta cerchiamo di contenerci, ecco. Quindi i Dunk per me saranno per sempre associati a Mica Cacchi, comunque va bene. Effettivamente nel 2018 allora i Dunk presentano il loro tour e il loro album omonimo, e poi stop, per il momento non abbiamo altre informazioni riguardo i Dunk. Perché? Perché nel 2019 Ettore Giuladei dice: sai cosa? Ma faccio qualcosa da solo, ed è l'album di cui vi stiamo parlando. Esatto, Ettore Giuladei, che peraltro poi vi racconteremo anche questo dopo la prossima canzone, era un po' che pensava a fare un album solista, però poi sono iniziati i Dunk, era preso bene, hanno fatto un sacco di date, un album spettacolare, e quindi ha rimandato l'uscita di questo suo album solista, che è arrivato solamente il 25, solamente, fortunatamente, il 25 ottobre scorso. Cosa ascoltiamo adesso, Mauro? Adesso vi facciamo ascoltare la traccia numero 4, che si intitola La Sconosciuta, così la conosciamo tutti insieme. Chi è sta qua? Non lo so, scopriamolo. Va bene. Sono svegliato a metà notte dal ricordo della donna sconosciuta. Bionda da quel che mi ricordo, ma vicino sicuramente piccola. Non ricordo una parola, non so dove trovarla, non so l'ora, ma so il nome, il desiderio, l'incubo. Conosco il gesto, ma non so dove lavora. Ma l'immagine fantastica ha già visto la sua vita, nuda sotto la maglia larga, con la lama della lingua, la magica serena, consapevole risata della giungla, del momento che non ha mai passato e che credo morirà tra qualche giorno. penso al gusto che può avere la sua bocca con il bacio della doccia, al sapore del pensiero che non lascia che l'estremo desiderio di incontrarla. Non ho visto le sue scarpe, sarà che qualche giorno che non posso ricordarla, e nemmeno la speranza di sentirla camminare. È una fata e può leggere il segreto che la pensa, ma non può veder la testa, non cerca la risposta. Morirò non come lei, morirò con il segreto, ma l'immagine fantastica ha già visto la sua vita nuda sotto la maglia larga, con la lama della lingua, la magica serena consapevole risata della giungla, del momento che non ha mai passato e che credo morirà tra qualche giorno. Allora, a scoprire questo album. Quest'album è Lucertola, è uscito il 25 ottobre ed è stato anticipato tra l'altro dall'uscita di un singolo che era Sette Astri, ed è sostanzialmente l'album di esordio solista, possiamo dire così, di Ettore Giuradei. Cosa dice Ettore riguardo a quest'album? Come dicevamo, lui prima di fare il disco con i Dunk avrebbe tanto voluto farne uno da solo, più intimo e cantautorale, solo chitarra e voce, e dice: ma non mi sentivo pronto. Il progetto ha però preso forza nella mia mente proprio durante l'avventura Dunk, e ho deciso di coinvolgere Giacomo Papetti al basso, che viene dal circuito jazz, quindi anche qui le sonorità particolari, e a tastiere, synth, effetti e tanto altro Fidel Fogaroli, che fa parte un po' del progetto Verdena. Giacomo e Fidel hanno registrato dopo aver sentito il disco solo una volta, affidandosi alla scintilla creativa del momento. Cioè, praticamente lui chitarra e voce ha suonato e poi ha chiamato questi due e gli ha detto: sentite un po', facciamo qualcosa tutti insieme. Infatti la cosa particolare di quest'album, come vi abbiamo anticipato già all'inizio, è che Lucertola è stato registrato appunto con la partecipazione di altri artisti, di altri musicisti, però a questi musicisti non sono stati dati né brani da studiare e nemmeno partiture. Hanno ascoltato solamente una volta i 9 provini dei brani del disco e poi hanno dovuto sostanzialmente riprodurli. È stata un'orchestrazione un po', diciamo, particolare, soprattutto in presa diretta continua. Infatti il tasto REC è stato sempre premuto, cioè sostanzialmente hanno registrato qualsiasi cosa che succedeva. Sì, Ettore dice: questo è stato fatto al fine di catturare tutti gli attimi della creazione degli arrangiamenti e tutte le takes di ripresa dei pezzi, quindi tutto quello che è saltato fuori poteva essere buono, non so, i sospiri, le note magari suonate mentre appoggi la chitarra per terra, poi successivamente analizzate, tagliate, ricomposte e prodotte, post prodotte da Paolo Fappani nella sua versione definitiva dell'album. Tra l'altro questa tipologia di creazione è un tributo sostanzialmente a un processo creativo che cita il lavoro di un produttore. Questo produttore si chiama Teo Macero, che ha usato, diciamo, la stessa tipologia di procedimento in un altro album, Bitches Brew di Miles Davis. Insomma, mica cacchi anche qua. Cacchioli, acciderbolina, Mauro, acciderbolina. Direi che a questo punto ascoltiamo un altro pezzo, torniamo da voi, vi diamo le ultime informazioni e poi vi salutiamo. Esatto, come dicevamo, l'album è stato anticipato dal video Sette Astri per la regia di Sara Barozzi. Adesso in radio è difficile farvi vedere il video, ma vi facciamo almeno ascoltare il primo singolo, la traccia numero 7, che si intitola Sette Astri. E poi andate a cercarvi il video se volete. Buon ascolto. Thank you. le sette astri dal lungo corso ruotano alle porte dell'Olimpo con essi trascorre eternamente il tempo. Amarsi, condividere l'inferno è una sorta di paradiso marchiato dalle stelle. Estendo la violenza al senso dell'amare l'universo. Parentesi, perdere i sensi, sogni di navicelle, porti celesti, cullarsi in gigantesche ceste appese alle stelle, un mucchio di corpi, fratelli e sorelle. Eccoci qua, abbiamo ascoltato anche il singolo Sette Astri, insomma abbiamo ascoltato la poesia di Ettore Giuradei in questi primi tre pezzi che vi stiamo presentando del suo album d'esordio come solista che si intitola Lucertola. Esatto, allora di questo album abbiamo detto tante cose, non vi abbiamo detto di quanti brani è composto. Infatti il Lucertola, che è uscito ricordiamo il 25 ottobre, contiene 9 brani, la nona è una bonus track in realtà. I 9 brani, adesso vi diciamo i titoli di tutti quanti, così poi magari ve li studiate. L'album si apre con Canzone dell'addio, poi Ferire il cuore, tra l'altro detto da me suona molto male, ripeti il nome della traccia numero 2? Ferire il cuore, senti che bella R che ho, senti R. Si prosegue con Come stai? Poi bene, tu come stai? La sconosciuta che abbiamo ascoltato poco fa, Lucertola, che dà il nome all'album. E che abbiamo ascoltato come primo pezzo. Strega, Sette Astri, che è il singolo che vi abbiamo appena fatto ascoltare, Prendimi un mazzo di fiorellini, molto poetica anche qua, già dal titolo proprio, ma anche nel Cacchiolina! Testo. E Un attimo prima di dormire, che era bonus track, la traccia numero 9. Come ultima informazione vi diciamo che il cantautorato appunto di Ettore Giuradei è stato diretto dall'orchestrazione live di Paolo Fappani e di Rodney Amighetti, che vengono dalle Clubhouse, e anche ha incontrato anche l'estro creativo di Giacomo Papetti e di Fidel Fogaroli, che abbiamo citato prima, ex Verdena, e ha partecipato alla creazione di Lucertola. È nato insomma quest'album che speriamo vi sia piaciuto, vi abbiamo presentato oggi, ed è un album che viene definito come un album arricchito da una produzione che riporta le atmosfere del Bowie mitteleuropeo di Lo e del Badalamenti di Twin Peaks. Hai visto? Cioè, una roba qua. E che esalta il songwriting caratteristico e unico di Ettore. Insomma, questo è l'album che volevamo raccontarvi oggi. Insomma, la poesia di Ettore Giuradei l'avete ascoltata insieme a noi. Speriamo che questo album vi sia piaciuto. E a questo punto vi facciamo ascoltare l'ultimo, almeno per quanto ci riguarda, che possiamo presentarvi oggi. L'ultimo brano tratto da Lucertola di Ettore Giuradei, e per salutarci non possiamo fare altro che farvi ascoltare la canzone dell'addio. Sì, però poi noi torniamo la settimana prossima. Sì, è solo un arrivederci. Ah, ok. Fujiko Factory è sempre qui, il disco della settimana torna ogni lunedì, e voi se volete ci trovate anche su The Festival's Backpack, così ci pubblicizziamo. Così proprio in col calcio d'angolo facciamo una sponsorizzazione del nostro sito. Sì, di solito quello che vi raccontiamo qua a Radio Città Fujiko è anche sul nostro sito festivalsbackpack.it. abbiamo scelto un nome del cavolino, Cacchiolino. È la parola d'ordine. Vi lasciamo con la canzone dell'addio tratto da Lucertola di Ettore Giuradei. Vi auguriamo un buonissimo lunedì, buon inizio settimana, ciao. Prima di partire mi hanno detto qualsiasi cosa che io possa, alla fine insieme al resto alla fine insieme all'ombra, ai mormori, a tutto il male, per concludere qualcosa che si possa raccontare. È questo l'amore, ma sì, ci devi credere. Hanno detto alza la testa e guarda questo splendore, questo ordine, Signore. Bisogna che io sia presente, ma mi sento troppo vecchio per nuove abitudini e troppo lontano non finirà proprio mai. Non partirò proprio mai. Poi un giorno all'improvviso, ecco che cambia, che finisce, non si capisce, ecco che muore. O forse sono io, e lo domando alle parole, ma loro non sanno dirmi niente. Apro la porta e me ne vado, son così curvo sui miei piedi. Se apro gli occhi tra le gambe, un po' di polvere di nero. Son così curvo sul pensiero, che sveglio piango anche di notte. Mi dico che la terra è spenta, benché io accesa non l'abbia mai vista mai. È facile andare, è facile andare, e piangerò di gioia se capiterà. Mi dico che la terra è spenta, benché io accesa non l'abbia mai vista mai. È facile andare, è facile andare, e piangerò di gioia se capiterà. Mi dico che la terra è spenta, benché io accesa non l'abbia mai vista mai. È facile andare, è facile andare, e piangerò di gioia se capiterà. Mi dico che la terra è spenta, benché io accesa non l'abbia mai vista mai. È facile andare, è facile andare, e piangerò di gioia se capiterà. Mi dico che la terra è spenta, benché io accesa non l'abbia mai vista mai. È facile andare, è facile andare, e piangerò di gioia se capiterà.